vita, no, non si parla d'amore, è una canzone che ti dica qualcosa quando stai male, quando sei confusa, e adesso sai che c'è. Andiamo fuori a ballare, è una domenica strana, senti l'estate nell'aria, andiamo a fatti spogliare, dai lasciati andare, sì dammi da bere, pare che oggi ci si metta più impegno a baciare un culo che a lavorare. Da dove viene questa fragilità? Nessuno crede in quello che fa. E adesso sai che c'è. Andiamo fuori a ballare. È una domenica strana. Senti l'estate nell'aria. Andiamo fatti spogliare. Dai, lasciati andare. Scappano dalla realtà, tutti che parlano d'amore, ma poi nessuno che lo fa. Dammi da bere, dammi da bere. Un amaro, grazie.